Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi, io, Robert, abbiamo osservato la storia. E ora siamo dentro la storia. Siamo nel mezzo d'una guerra. Una guerra che continua da sempre, per proteggere un segreto così potente che, se fosse rivelato, distruggerebbe le fondamenta stesse dell'umanità. Sono coinvolto in qualcosa che non capisco. È la più grande mistificazione della storia umana. Devo dire che è una grande passione quella di addentrarsi nel lato oscuro della storia. Questo era un trailer dal Codice da Vinci, che comunque rivela e ha dato adito e ha concretizzato, ha trasformato in epico quello che era un mormorio diffuso che ancora si diffonde su alcune possibilità che esistano dei padroni del mondo che si muovono da millenni nelle pieghe di quello che noi vediamo, una sorta di sinarchia, il governo dei pochi nascosti. Ieri mi è capitato di vedere un altro filmato in internet che parla del gruppo Bilderberg, che sicuramente sarà qualcosa di molto misterioso e molto potente, ma che appassiona tanto. Oggi, visto che c'è un'enorme diffusione delle possibilità che si hanno di esprimere il proprio pensiero, di manifestare ogni propria bizzarria, ogni propria visione del mondo, è chiaro che anche i misteri più misteriosi, i complotti più intricati, i segreti più nascosti possono essere chiaramente rivelati, raccontati, rimbalzano, ma rimangono comunque nel loro alone di mistero. Una delle più classiche maniere che avevano gli alchimisti, anche lì un altro mondo misterioso, però di salvaguardare la loro sapienza ermetica, direi, ma la maniera migliore per non farlo sapere a nessuno è metterlo sotto gli occhi di tutti. Ciò che è palese sotto gli occhi di tutti può rimanere sicuramente nascosto. Non so se questa è la chiave di lettura che voi avete sempre considerato nell'osservare ciò che sembra muoversi negli anfratti dell'ufficialità, della storia, dell'informazione. Ma voi credete ai misteri? Credete ci siano dei grandi complotti internazionali? Immaginate anche voi che dietro alcuni episodi di cronaca si possano celare, faccio esempio, la strage delle Torri Gemelle, ci possa esistere dietro una sorta di complotto, che in realtà le cose non stanno come in quel momento sono accadute secondo la storiografia ufficiale, o altre misteriose scomparse, da il nostro Ettore Majorana, uno dei ragazzi via Panisperna, fino a i casi più calcati ultimamente dalle cronache di personaggi di cui non si sa più nulla. Ragazza Orlandi si sta favoleggiando e non si sa nulla, e si chiede ancora che qualcuno riveli qual è il mistero, qual è il posto, dove è finita, chi l'ha nascosta, quale orrendo marchingegno ha fatto scomparire questa ragazza. Un intrigo tra politica, Vaticano, lussure, soldi, malavita organizzata, non sa bene cos'altro. Beh, voi quali sono i misteri che considerate più insondabili e quali considerate invece piuttosto delle allegre, simpatiche o macabre panzane, che sono alimentate oggi ancora di più dall'alimento costante del diffondersi in rete? 800240024. Non è facile per nessuno accettare l'idea che le torri non siano crollate da sole, ma che siano state demolite volontariamente, pur sapendo quante persone si trovavano al loro interno in quel momento. Ma nell'arco di questi anni sono emersi svariati indizi che puntano chiaramente il dito in quella direzione, mentre rendono sempre più difficile spiegare i crolli come semplice conseguenza degli impatti e degli incendi. Il primo elemento a mettere in dubbio la versione ufficiale è che le torri stesse erano state progettate per reggere con ampio margine all'eventuale impatto di un grosso aereo di linea con conseguente incendio. I calcoli erano stati fatti su un Boeing 800240024. Non voglio parlare soltanto del mistero delle Torri Gemelle, c'è stato un fiorire di letteratura, di illustri colleghi su questi hanno dato per anni il loro contributo professionale, quindi è un dibattito che mi interessa in questo momento relativamente. Quanto mi interessa analizzare, per quanto il tempo ce lo permette, da quelli che sono i maggiori filoni dei segreti e dei complotti, perché è uscito proprio in questo periodo un libro interessante, Rivelazioni, il libro dei segreti e dei complotti, scritto da Massimo Polidoro. Massimo Polidoro è un giornalista, uno scrittore, ha contribuito alla fondazione del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, ma è una persona che per tutta la vita si è preso la briga, non so se per divertimento, per sfida o semplicemente perché gli stanno antipatici i cialtroni, di smascherare quelli che erano le grandi bufale dell'umanità, e si è impegnato quindi in questa analisi del complotto. Massimo Polidoro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, qual è la differenza rispetto a tutto il lavoro che hai svolto prima con il CICAP, la sconfessione dei ciarlatani, dei maghi, dei chiromanti, delle voci incontrollate, degli UFO, delle scie chimiche? Non so nemmeno elencare quali sono i motivi di eterna dannazione che mi sono procurato invitandoti più volte a questa trasmissione. Però questa volta vai, tocca, metti le mani nella roba grossa, affondando le radici nelle cose passate lontane, che ancora forse qualcuno ricorda, fino alle cose più attuali e più concrete. Riusciamo a dare un abbozzo di filone per regolamentare, in qualche maniera ordinare la materia che hai trattato? Intanto c'è da dire che c'è stata una sorta di evoluzione, no? di trasformazione genetica del mistero, se vogliamo. Prima c'erano i maghi, il paranormale classico, e adesso va molto, molto diffusa la teoria della cospirazione. Anche il CICAP stesso ha dovuto prenderne atto e cambiare nome. La P che diceva paranormale ora è diventata pseudoscienze. I filoni che più moderno come termine, in effetti. No? Tutti anche... parlano, diciamo, della scienza non ufficiale, della medicina non ufficiale, con termini idiota secondo me, col di non ufficiale. La scienza è scienza, la medicina è medicina. Esattamente, una cosa o funziona o non funziona, che sia ufficiale o non ufficiale. Se dobbiamo provare a dare delle linee guida, insomma, delle classificazioni, mi sembra che ci sono i complotti che hanno aspetti, tra virgolette, anche non tra virgolette, politici, no? L'assassino del presidente Kennedy, gli Trattori Gemelle, con tutto quello che ne consegue. Ci sono invece quelle teorie della cospirazione che hanno invece un aspetto più, tra virgolette, mondano, nel senso che riguardano personaggi dello spettacolo, come possono essere Elvis Presley, Jim Morrison, Lady Diana e tanti altri. I non mai morti sarebbe. Esatto, no? Quelli che la cui morte, insomma, nasconderebbe qualcosa di ancora. Allora, fermo un attimo, Polidoro. Andrea, buongiorno, il primo. Buongiorno, io chiamo da Cesena. Volevo ricordare, mi sentite bene? Benissimo. Volevo ricordare la questione del colonnello Corso, insomma, di questo capo della divisione tecnologica straniera dell'esercito degli Stati Uniti, che ha lavorato al Pentagono per 50 anni. Tutti ricorderete il famoso crash di questo disco volante nel New Mexico. Insomma, qui ci sono l'autopsia degli alieni, queste cose. Esatto. Ci sono delle notizie raccapriccianti. Come dimenticarlo? Quei poveri alieni sul tavolo anatomico. Il colonnello Corso ha scritto un libro dettagliatissimo, con nomi, cognomi, nomi di generali, informazioni a largo raggio, non so, insomma, una cosa veramente fuori dal normale secondo il mio punto di vista. Ma lei ci crede? Come? Lei ci crede? Beh, io ne prendo atto, ripeto, qui si parla di un colonnello del Pentagono, ripeto, con nomi e cognomi di varie personalità. Allora lei mi ha dato un'ottima cosa, Andrea. Massimo Polidoro è una case history questa del nostro ascoltatore, in caso che il cosiddetto complotto, il mistero, è surrogato da prove inconfutabili, da personaggi che hanno un ruolo pubblico sui quali è difficile porre l'alone del dubbio. Beh, certo, no? C'è sempre qualche personaggio importante. Nel caso di Roswell, il generale, il colonnello Corso, raccontò questi retroscena. Il fatto è che ci sono tante incongruenze nelle sue affermazioni, adesso magari non è il caso di entrare nei dettagli, se non la cosa più eclatante di tutte è il filmato, no? Che tutti quanti hanno visto. È la famosa dissezione dell'alieno. Esatto, quel poveretto finto alieno, ahimè, ormai si sa. Nel senso che chi ha creato quel filmato ci ha fatto una montagna di soldi, l'ha venduto in tutto il mondo spacciandolo per utenti, e dopo qualche anno allegramente ha delato per un falso, ha spiegato come l'ha fatto. Ecco, mi spieghi, Polidoro, mai è più facile che rimanga impressa nella nostra memoria collettiva il fatto che ci sia un filmato con l'anatomia degli alieni e tutti tendono a dimenticare, a selezionare il fatto che poi l'autore del filmato un giorno ha confessato che era tutta una bufala, era fatto su dei pupazzi, adesso non ricordo bene, ma comunque era finto. Beh, è lo stesso meccanismo per cui finisce in prima pagina la notizia che un signore ritrova in un'ampolla sotto alcol il cucciolo di un drago. Questo è successo qualche anno fa ed era sulla copertina della stampa e di tanti quotidiani anche internazionali, mentre nessuno, se non in 46esima pagina, si prende la briga di dire due settimane dopo che quel signore era uno scrittore che cercava di vendere il proprio libro sui draghi e si era fatto costruire un modellino di drago da uno studio di effetti speciali. Piace la notizia straordinaria, la smentita, ahimè, non piace. Ti dico subito alcuni elementi che poi vedo che tu hai trattato nel tuo libro che solleticano gli ascoltatori. Qualcuno mi scrive: basta far politica, Nicoletti, perché nominare i complotti significa far politica, cioè mettere in crisi chi fa del complottismo un proprio strumento di opposizione. Poi Paul McCartney, Michael Jackson, l'omicidio di Kurt Cobain, John Kennedy, la morte di John Kennedy, queste sono le cose che in questo momento sembrano sì. Più interessanti. Beh sì, allora c'è la cosa allegra, se vogliamo, come il giallo della sostituzione di Paul McCartney, no? L'ex Beatles che sarebbe stato sostituito da un soge perché è morto in un incidente, e gli stessi Beatles che nascondono nei dischi, nelle copertine, nelle canzoni una montagna di indizi per rivelare questa ricerca. Ma perché non lo dicono? Infatti, perché non lo dicono? Tanto più che il sostituto di Paul McCartney avrebbe un talento ancora più straordinario del vero Paul McCartney. Poi Michael Jackson e Kurt Cobain? E anche loro, lì ci sono, come sempre, quando muore un personaggio straordinario, come possono essere queste star della musica, piuttosto che Lady Diana e altri, entra in gioco la cosiddetta dissonanza cognitiva, cioè sembra talmente impossibile che un personaggio così importante, così amato, possa morire in circostanze così banali e così semplici, come possa essere un incidente, un overdose di farmaci o altro, che... per forza ci deve essere qualcos'altro, no? Si insinua l'idea che deve esserci una spiegazione molto più complessa e molto più all'altezza dell'importanza del personaggio, e quindi è un po' questo che tante volte fa nascere le leggende. Ecco, poi l'ascoltatore dotato di spirito eccelso sopraffino, c'è il mistero dei misteri, come lei possa continuare a lavorare a Radio 24 News e essere preso ancora sul serio. Vabbè, questo Claudio da Roma. Melog, cronache meridiane. Ottobre 1969, a Detroit il disc jockey Russ Gibb riceve una telefonata anonima. Una voce maschile gli dice che Paul McCartney sarebbe morto in un incidente stradale nel 1965 e che dopo averlo sostituito con un sosia, tale William Campbell, i tre membri superstiti del gruppo, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, avrebbero cominciato a nascondere nei loro dischi dei segnali inquietanti. La voce anonima consiglia poi a Gibb di guardare meglio certe copertine dei dischi e di ascoltare con attenzione alcune canzoni. Nella celebre Eleanor Rigby si parlerà di un prete, padre McKenzie, che prepara il sermone per una cerimonia a cui nessuno assisterà. Un riferimento al fatto che McCartney fu sepolto in gran segreto? Ecco, quello è una traccia di ciò che diceva poco fa Massimo Polidoro sui segnali lasciati sulla morte del Beatle, misteriosamente invece riapparso in varie occasioni. Ricordo che ho ospite Massimo Polidoro, che è tra i fondatori del CICAP, ma che ha scritto Rivelazioni, il libro dei segreti dei complotti, edizioni PM, che è un librone dove sta raccolto tutto quello che state chiedendo in maniera incensante. Leggo qualche mistero, poi Polidoro appunti e mi risponda. Moana Pozzi, grande mistero, ma lo stesso Schicchi a me prima di morire poi ha confessato che in realtà l'ha vista morta. Poi Nicoletti, cercate le video interviste di Sarah Kennedy su YouTube, altro complottismo. Poi il complotto dei banchieri a favore dell'elite dei banchieri, e poi gli UFO allo stadio, come mai si è visto collettivamente un UFO allo stadio. Poi Adam Cadmon, che è un personaggio con un cappuccio che fa un cialtronissimo programma in televisione. Sentiamo Matteo, per esempio. Matteo, buongiorno. Sì, Nicoletti, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo fare solo un intervento relativamente alla probabilità e alla statistica, nel senso, ci sono milioni di sistemi solari nella nostra galassia, le galassie comunque sono miliardi, quelle a noi conosciute, anche solo per un fatto appunto di probabilità e di statistica. Non dovrebbe essere un grosso punto di domanda quello, cioè nel senso, sì, gli UFO dicono che si vedono, che non si vedono, che sono dei fake, però se poi confrontiamo comunque questo con appunto un dato di probabilità unicamente, mi sembra strano che siamo gli unici, no? Quindi, ma guardi, qualcosa... io posso dire, dico il mio punto di vista. Se io vedessi qua atterrare un disco volante e scendere gli UFO, non mi meraviglierei, dico, ah Dio mio, ecco, rovesciato il mondo. Dico, finalmente sono arrivati, probabile che ci siano. Se vedessi passeggiare mio padre e mio nonno defunti da anni, direi, beh, vedi, si è aperta una porta fra due dimensioni, non immaginavo una cosa simile. Quindi non sono uno scettico a priori, è che però le cose le devo vedere, voglio avere una prova, voglio che ci siano dei parametri di verificabilità di questi fenomeni. Sorrido quando vedo il disperato tentativo comunque di mettere insieme, impapocchiare, aggiungere. Sono una persona che tende a pensare possa accadere qualunque cosa, però vuole averne la certezza. Massimo Polidoro, su quello che ha detto l'ultimo ascoltatore, sulle domande che hanno fatto gli altri. Ma è ragionevolissimo pensare che possa esistere una qualche forma di vita nell'universo, talmente esteso, talmente vasto, che gli stessi astronomi, gli astrobiologi, sperano e anzi pensano che ci sia qualche forma di vita. Il problema è un altro, cioè quello delle distanze, no? L'unico posto in cui noi siamo riusciti ad andare fuori dalla Terra è la Luna, che si trova solamente a 384.000 rotti chilometri di distanza. Il primo pianeta più vicino a noi, che è Marte, si trova a 250 milioni di chilometri. E sono necessari 9 mesi di viaggio, a noi sarebbero necessari, per arrivarci con una astronave dalla Terra. Beh, pensiamo che per andate e ritorno alla stella più vicina a noi, quella dove magari potrebbe trovarsi un altro pianeta simile al nostro, si trova a 4,2 anni luce, cioè 50.000 anni di viaggio. Ecco, questi sono i problemi. Si può immaginare che ci siano gli extraterrestri, che vengano però a trovarci qui da noi facendo viaggi appunto a distanze impossibili anche da immaginare, e però giochino a nascondino, rapiscano la casalinga piuttosto che quello che poi scrive il bestseller. Ecco, questo è quello che sembra molto improbabile, soprattutto perché non c'è neanche un rottame, un frammento di un'astronave che non sia diverso dal materiale che esiste sulla Terra. Diciamo che oggi, con la diffusione del web 2.0 su YouTube, mi diverto molto, vedo continuamente dei filmati che apparentemente improbabili. Ultimamente si gira uno di un reale atterraggio di un disco volante che riparte, scendono gli uomini diafanoidi o rettilani, non so bene cosa. Un altro, c'è una cosa misteriosissima, si vede un signore che attraversa una strada con una specie di furgoncino a pedali, una cosa del genere, e un camion lo travolge, ma poi si rallenta l'immagine, vede come una sorta di figura angelica che lo prende, lo preleva e lo mettono a parte, si allontana. E tutti, come può essere successo? Non immaginando che qualsiasi mistificazione è possibile in un video, ma anche un video artefatto a casa propria. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamo dalla Brianza. Io intervenivo, essendo appassionato di misteri, soprattutto relativi all'archeologia, alle civiltà antiche. Mi dica uno che è quello che più l'appassiona. Beh, tutte le teorie attorno ad Atlantide, questa civiltà che probabilmente è esistita prima di quella attuale, di cui i vari siti megalitici danno testimonianza, se si vogliono vedere da questo punto di vista. Però il messaggio che volevo passare è che appunto secondo me il CICAP, scientificamente bravissimo, però fa l'esatto errore in direzione opposta rispetto a noi che amiamo queste cose, cioè non vede complotti ovunque, non vede misteri per partito preso. Quindi, come noi vediamo complotti e misteri, loro non li vedono per partito preso. Questo però, è il messaggio, diciamo, seguono un sistema di verifica diverso. Però sentiamo Polidoro, non voglio fare, non sono un difensore del CICAP. Ma sì, è proprio così, nel senso che a noi non interessa sapere nessun partito preso, sarebbe un'enorme perdita di tempo quella di impegnarsi come facciamo ormai da non siete un'alternativa anni. Alla religione, diciamolo chiaro. No, di sicuro. Ma noi siamo 25 anni che esistiamo, ci dedichiamo a questi argomenti e con passione, anche perché i misteri appassionano anche noi, appassionano tutti quanti, no? E però ecco, il metodo che ci guida non è quello, adesso vi diciamo noi come stanno le cose, oppure è tutto falso. Poi devo dirtela, girano anche filmati con l'anima che lascia il corpo, e quelli sono veri. Anche Ghost è vero, è un film. Anche Ghost è vero. anche Casper è vero. Dai. Beh, il discorso è proprio quello, no? Valutare le prove, questo non interessa, Atlantide o altri argomenti di cui ci siamo occupati in maniera estesissima. È bello leggere romanzi di Bundane che no, i film, oppure le trasmissioni televisive che parlano di queste cose in maniera totalmente attesa. Ma non avete messo in palio un premio voi, se qualcuno vi porta realmente un mistero risolto? Sì, c'è un premio di $1,000,000 messo in palio da James Randi, che è il nostro... Che non ha vinto, diciamo, ancora nessuno. Che nessuno ha ancora vinto, anche se in centinaia ci hanno provato, insomma. No? Per chiunque dimostri una qualunque facoltà paranormale che sia autentica in questo caso. Beh, dico, se ci fosse la possibilità di dimostrarla per $1,000,000, sfido chiunque a farlo o a non farlo. E andiamo avanti un attimo, sentiamo un altro selvaggio. La storia di Judy riproduce uno schema ricorrente che gli investigatori di rapimenti extraterrestri hanno sentito ripetere infinite volte, anno dopo anno. Fino a 5 anni fa non sapevo niente dell'esistenza di extraterrestri, non avevo letto nulla in materia. Nel cuore della notte venni svegliata da un bagliore di luce. Sentivo come se... Polidoro, non è che poi alla fine tutti i misteri... A noi piace crederci perché hanno in sé qualcosa che appartiene alle vecchie credenze, alle mitologie, alle religioni, insomma è qualcosa che noi, di cui non riconosciamo un valore confortante e che in qualche maniera ci fa sentir meglio, piuttosto che lo svelatore di misteri ci dice che è vero soltanto ciò che è dimostrabile. È proprio così. Mi chiedono dei cerchi del grano, ma nemmeno siamo arrivati alla fine, nemmeno faccio parlare sui cerchi del grano, mi sembra che già è stato detto tanto, no? Eh sì, ma è proprio così, nel senso che le teorie del mistero, le teorie del complotto ci, in qualche modo, ci aiutano a dare un senso a un mondo che sembra caotico, che sembra inspiegabile. La teoria della cospirazione che ci dice che è tutto meccanicamente, in maniera precisissima, programmato e deciso da pochi uomini potenti, fa questo, ci dice che c'è qualcuno che ci guarda, ci osserva e ci guida. Accettare l'idea che invece viviamo nell'imprevedibilità più assoluta e tutto può succedere da un momento all'altro, sicuramente è molto molto meno... Grazie, grazie Massimo Polidoro, ringrazio Valerio Rocchetti e l'immarcescibile Fabrizio Intonti, a domani.